primavera e partenze. E per il nostro paese si è fatto poco. L'oppressione è sempre qui. Ma presto scatterà la rivolta. Nazionalista ti porgi a mano, da quello sia meglio un nostro bene. E faccia usare, canteremo, la speranza d'un popolo che da essere libero. Marceremo tracciando una strada nuova, cantando una canzone nuova per la bene. Un nazionalista è presente in la lotta, e la nostra terra sarà liberata. Marceremo tracciando una strada nuova, contando una canzone nuova per la bene. Un nazionalista è presente in la lotta e la nostra terra sarà liberata. A domani, frate! Corsi sempre ripeti! A domani! E via, corsi canazione!